Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Almeno il cappello, l'ultimo romanzo di Andrea Vitali, racconta le avventure della piccola fanfara di Bellano e del sogno di poterla trasformare in un vero e proprio corpo musicale. Da un annetto circa, la fanfara, la domenica e le altre feste comandate, riceveva con allegre marcette i turisti che raggiungevano Bellano a bordo del battello. L'idea dell'accoglienza musicale era stata della Direzione Generale della Navigazione Lariana, che l'aveva passata a tutte le amministrazioni comunali della riviera tramite circolare. Il podestà di Bellano, Gemmo Parpaiola, con la solidarietà dei suoi collaboratori, aveva lasciato cadere la proposta ritenendola inutile. Turisti ne arrivavano comunque, senza contorno di musica. Cosa potevano aggiungere quattro note alle attrattive ambientali e gastronomiche, grazie alle quali le contrade e i locali pubblici bellanesi, nei giorni di festa, erano sempre pieni di forestieri? Non così l'aveva pensata Zaccaria Vergottini, suonatore di cornetta per tradizione di famiglia. Un virtuoso dello strumento, il Zacca. Tanto che, in occasione di concerti importanti, quando c'era da rinforzare l'organico, il corpo musicale Alessandro Manzoni di Lecco ne richiedeva l'opera. Era stato proprio in un'occasione di quelle, durante il concerto di Natale del 1927, tenuto presso il Teatro Sociale e al quale aveva presenziato anche Sua Eccellenza il prefetto di Como, che il Vergottini aveva appreso la novità. In parecchi paesi della Riviera, da Onno a Bellagio, da Mandello a Cadenabbia, da Dongo a Gravedona, già quell'estate piccole fanfare avevano accolto i turisti a suon di musica. E spesso quelli, grati per la festosa accoglienza, alla fine del concertino avevano persino sganciato un obolo che era finito per intero nelle tasche dei suonatori. Oh bella, aveva pensato il Vergottini. Subito, il giorno dopo la scoperta, aveva scritto un'ossequiosa lettera alla Direzione Generale della Navigazione Lariana per chiedere il permesso di allestire anche lui a Bellano una fanfara di accoglienza. Ottenuto il nulla osta, aveva scritto, non gli sarebbe servito altro. I suonatori li aveva già tutti sotto mano. Erano quelli che, sotto la sua direzione, formavano il gruppo che seguiva il corteo dei Re Magi la sera del 5 gennaio. Dilettanti, in grado di suonare Teresa di Pomma, l'inno della festa e qualche altra canzone popolare, ma che, adeguatamente istruiti e allenati, avrebbero potuto ampliare il repertorio, renderlo, per così dire, internazionale. La Direzione Generale gli aveva risposto con una cortese lettera a firma di tal Ragionier Segantini, in cui veniva spiegato che non c'era alcun bisogno di permessi o quant'altro. La Direzione Generale, infatti, ritenendo di lavorare a beneficio dell'immagine e dell'economia dei paesi toccati dai propri mezzi di trasporto, aveva messo l'idea a disposizione di tutte le amministrazioni comunali del lago, che ne facessero, insomma, quello che volevano. Ma i riscontri favorevoli registrati agli attracchi là dove l'iniziativa era stata ben accolta e aveva preso piede, la dicevano lunga circa la bontà della stessa. Il Vergottini aveva allora spostato il tiro, dagli uffici della Navigazione Lariana allo studio del Podestà. Ottenuto il permesso verbale da parte del Podestà per allestire la fanfara, s'era sentito in dovere di informare del felice esito della sua richiesta il gentilissimo Ragionier Segantini della Navigazione Lariana, che l'aveva così ben consigliato. Proprio perché aveva avuto da lui così utili consigli, il Vergottini si era permesso di sottoporre alla sua attenzione un problema di non facile soluzione e che riguardava il luogo dove la costituenda fanfara avrebbe potuto tenere le necessarie prove onde offrire ai turisti un'accoglienza musicalmente degna. Ma quale locale? Dove? Un'idea il podestà se l'era fatta. Aveva avuto tempo per pensarci tutta la giornata. Era una stanzaccia di proprietà del comune sita in via Loreti. Locale unico, senza cesso, fatiscente, inutilizzato da almeno un decennio. Poteva andare bene. Benché orfana del bombardino, la fanfara uscì. Non bisognava offrire il destro a critiche, aveva ragionato il maestro Vergottini, che si sentiva addosso gli occhi del podestà e della sua giunta, o peggio, a ritorsioni. Ma senza il bombardino come si fa a suonare? Era stata la domanda della seconda cornetta che aveva parlato a nome di tutti. Era vero. Fosse mancato un clarino o appunto una cornetta, pazienza. Ma senza un solista come il bombardino e suonato da uno come il Nasazzi, l'assenza si sarebbe sentita e come. Perché madre natura aveva farcito il lindo con un sacco di difetti, ma a titolo di risarcimento gli aveva dato quell'unica virtù. Virtù piena, pura, perfetta, un senso del ritmo che nemmeno un motore nuovo di zecca, nemmeno lo scandire di una pendola, nemmeno il sorgere e il tramontare del sole con le sue leggi eterne potevano eguagliare. Lo vedeva, lo sentiva dappertutto. Anche quando scorreggiava lo faceva a tempo di do e sol. Per tutta risposta il maestro Vergottini aveva incassato la testa tra le spalle. Nemmeno lui sapeva come se la sarebbero cavata, cosa ne sarebbe uscito. «Speriamo che nessuno se ne accorga», aveva detto, facendo poi notare, tanto per tirare su il morale alla truppa, che il cielo non era così sereno e la stagione delle scampagnate volgeva al termine. Due ottime ragioni per trattenere i turisti nelle proprie case. I turisti erano sbarcati. Nessuna grossa compagnia. Coppie o singoli, piuttosto, a parte un gruppetto, 7-8, di svizzeri, ticinesi. Rumorosi, gli uomini ancora in braga corta. Il maestro Vergottini ne aveva compresa la provenienza ascoltandone il dialetto. Una ventina di persone in tutto. Frettolose, per di più. Come se fossero sbarcate a Bellano non per godersi le bellezze del paesaggio e una sana pietanza in una delle tante trattorie, ma per lavoro o per qualche altra triste incombenza. A meno che, a provocare la fretta dei turisti, non fossero state le marcette zoppe che la fanfara, nonostante l'assenza del bombardino, aveva comunque suonato, perché l'assenza del Nasazzi si notava e come. A poco erano valsi alcuni virtuosismi che proprio lui, il maestro, aveva messo in atto nel tentativo di coprire l'assenza del necessario controcanto. Ma, certo, per intendere il difetto ci voleva orecchio, e non era da tutti. La gente era di bocca buona, aveva cotolette al posto delle orecchie, come quei tardivi gitanti, un po' di rumore che avesse l'ombra di un'armonia ed erano contenti. La maggior parte di loro era filata via come se avesse i carabinieri alle calcagna, sorridendo appena all'accompagnamento della fanfara. Uno solo, invece, sceso tra gli ultimi, privo di compagnia, pelato, preceduto anche dal suo grande ventre, l'occhio azzurro e lucido come se fosse stato brillo, s'era fermato ad ascoltare, andandosene con passo da generale in pensione, solo quando la fanfara aveva dato fondo al programma musicale. «Era andata», aveva pensato il Zacca. La faccia era stata salvata, avevano stabilito maestro e suonatori riuniti, dopo l'accoglienza al molo, presso la trattoria del ponte per bagnare il becco. Pazienza, se nessuno dei turisti aveva gratificato di una mancetta i musicanti, nemmeno quell'ultimo che, tutto sommato, la musica se l'era goduta sino alla fine. «Crepi l'avarizia!» aveva esultato il maestro Vergottini. A lui, essendo il capo, era toccato il doloroso onere e poi l'onore di saldare di tasca propria il conto. Avete ascoltato alcuni brani dal libro di Andrea Vitali, Almeno al cappello, Garzanti Editore, 408 pagine, 17,60 €. Mentre in Afghanistan e in Pakistan cresce la protesta per i maltrattamenti alle donne, in Italia e negli altri paesi occidentali cresce l'indifferenza. Commentavo con un'amica le ultime vicende in Afghanistan. La consigliera assassinata, le sassaiole contro le manifestazioni di Kabul contro la legge che garantisce il diritto di stupro nel matrimonio sciita, osserva la femminista Susanna Camusso, segretaria confederale della CGIL. Tra le tante cose che ci sono state raccontate quando siamo intervenuti nel paese è che le donne sarebbero state liberate dal burqa. Le attiviste afghane hanno marciato per i diritti delle donne a Kabul. Le attiviste pakistane, sia laiche sia dei partiti islamici, hanno protestato a Lahore e Karachi dopo la diffusione di video di ragazze frustate o uccise nelle zone tribali per relazioni illecite. In Italia e nei paesi occidentali si commenta e si riflette su queste notizie. C'è indignazione sul web. Ma le femministe non sono scese in strada a manifestare, non hanno presidiato le ambasciate. Né si è registrata una reazione forte e continua delle donne di sinistra, destra o centro. Viviamo una stagione di silenzio, dice Camusso. Il movimento femminista è come un movimento carsico, compare e scompare. La fase di scomparsa sembra durare da un po'. Camusso denunciò nel 2007 il silenzio delle femministe su Hina, la pakistana uccisa a Brescia dal padre perché voleva vivere all'occidentale. Non parlarono perché l'attacco all'immigrato non è politically correct, disse. La penso come allora, dice oggi. Anzi, se possibile, è ancora peggio. Si è continuato a tacere anche delle violenze sulle donne italiane. Il tema della violenza sessuale è scomparso, rinchiuso dentro le mura domestiche. Lo si usa solo per gridare scandalo se a commettere lo stupro è un extracomunitario. Se non ci si solleva per le violenze domestiche contro le italiane, figuriamoci nei casi delle donne all'estero. Secondo Assunta Sarlo, che nel 2006 organizzò a Milano una spettacolare manifestazione per l'aborto, pensare che l'unica modalità di espressione delle donne rispetto alle questioni dei diritti siano solo le manifestazioni è riduttivo. Ci sono molte modalità. Ragionare. Riunirsi. Ci sono siti, giornali, riviste in cui il dibattito continua sul multiculturalismo e le organizzazioni non governative di donne, ce ne sono tantissime nei paesi in via di sviluppo, pesano forse più delle manifestazioni. Camusso, però, crede che il problema sia più profondo. Chi teorizza il multiculturalismo tende ad escludersi dal dibattito. C'è una forte fatica a dire una cosa intuitiva, che il metro di misura della democrazia in Afghanistan, in Iran, in Somalia, è che i diritti delle persone non siano violati. C'è un'ulteriore difficoltà, il silenzio nei confronti delle religioni. Io penso che esercitare la critica rispetto a una religione nella logica della Sharia che presuppone la sottomissione non significhi non essere rispettosi, ma saper individuare aspetti di inciviltà. Un'altra questione è se il movimento femminista nei paesi musulmani apprezzi l'appoggio occidentale. A volte, se donne straniere appoggiano le femministe locali, queste ultime possono essere etichettate come anti-Islam da chi usa la religione a scopi politici, dice la scrittrice egiziana Saher El-Mouji. In ogni caso, possono fornirci un appoggio morale che però non cambia nulla sul terreno. La lotta più difficile è cambiare la cultura, ciò che le donne fanno contro se stesse e le figlie. L'avvocato Mehranjit Kar, una delle più note femministe iraniane, crede invece che benché non vi siano state grandi proteste di piazza, le donne in Europa e in America siano molto sensibili al problema delle afghane. Detto ciò, benché il movimento femminista sia unico e lotti ovunque per l'uguaglianza, va capito che le priorità sono diverse. Oggi le femministe in molti paesi musulmani stanno spesso attente a dire che Islam e i diritti umani sono conciliabili per ottenere legittimità e sperando di rafforzare i moderati. Chi li appoggia davvero all'estero fa lo stesso. È una strategia. Funzionerà? Non so. Forse solo nel breve periodo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Viviana Mazza, Kabul e il silenzio delle femministe. Ormai siamo escluse dal dibattito. Dal Corriere della Sera del 21 aprile. Letture di Radio 24. Su invito di Franceschini, Berlusconi molto probabilmente sfiderà la piazza partecipando alle manifestazioni del 25 aprile per dimostrare che la resistenza è un valore di tutti. Ma le precedenti esperienze insegnano che spesso l'antifascismo ha poco o nulla a che fare con la democrazia, come ha scritto Giampaolo Pansa sul Riformista di lunedì scorso. Non fatemi tanto sciocco da dare un consiglio pressante a Silvio Berlusconi. Pare che non ne accetti neppure dai suoi assistenti più vicini, dunque immagino quale esito avrebbe il parere di un giornalista. Tuttavia, gli dirò che cosa dovrebbe fare in occasione del 25 aprile. Se andare a Milano, come gli ha imposto un ingenuo Dario Franceschini, tanto debole da costringersi a fare il ganassa, lo spaccone, oppure se celebrare la liberazione in un luogo diverso. Essendo adulto e vaccinato, deciderà lui. Ma prima voglio ricordargli che cosa è avvenuto a Milano negli altri 25 aprile. Nel 2003, per esempio, a sperimentare le durezze della sinistra regressista fu Savino Pezzotta, in quel momento segretario generale della CISL. Era un leader democratico, una persona per bene, un antifascista coerente, ma alla Piazza Rossa non piaceva. La sua colpa era di aver firmato il patto per l'Italia proposto dal governo Berlusconi. Per questo, in Piazza Duomo, Pezzotta fu vittima di una contestazione ininterrotta. Fischi, insulti, urla forsennate. Gli gridarono «Venduto, servo dei padroni, torna a lavorare, vai in Confindustria». Una rabbia incontenibile, che insieme al segretario della CISL offendeva pure la ricorrenza del 25 aprile. Era anche un assurdo salto all'indietro nel tempo. Sembrava d'essere ritornati agli anni 50, quando la CISL veniva accusata di essere un sindacato giallo, al servizio del capitalismo più bieco. Chi aggrediva Pezzotta? A dare la risposta era la stessa piazza. Gli scaldati della sinistra più rancida, militanti di Rifondazione Comunista e dei comunisti italiani, tesserati della CGIL con l'orologio indietro di un trentennio, squadre d'assalto dei centri sociali, insomma, i soliti noti. Una minoranza, certamente, ma che confermava una verità. C'era, e c'è ancora, un mostricciolo autoritario travestito da antifascismo. Andò anche peggio il 25 aprile 2005, sessantennale della liberazione. In quell'anno al governo stava sempre il centrodestra. Tutta l'opposizione decise di fare dell'anniversario una giornata di lotta in difesa della Costituzione. Un testo sacro che Berlusconi voleva straziare a colpi di maggioranza. Per questo a Milano, ma non soltanto lì, si vide di tutto, anzi, di troppo. Troppa mitologia, accompagnata da un'enfasi condita di errori. Per citarne uno, quello che si lesse nel fondo dell'Unità. Il direttore Furio Colombo, un giornalista da apprezzare per la precisione dei suoi interventi, rievocò la lotta dei partigiani lungo tre inverni indicibili sulle montagne. Davvero indicibili, perché erano stati due e non tre gli inverni. E ancora troppa Bella Ciao, l'inno di battaglia cantato da Michele Santoro in TV, da allora usato come un'arma impropria contro manifestazioni e oratori sgraditi, da boicottare, da zittire, da cacciare. Troppi anatemi contro il revisionismo. Troppi vade retro contro chi sosteneva che la resistenza era stata, sì, una grande prova di dignità nazionale, ma a liberare l'Italia avevano provveduto gli eserciti di due potenze capitalistiche, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, perdendo sul fronte italiano migliaia di giovani soldati. In quel 2005, a Milano e altrove, la piazza si ubriacò di slogan politici. Tutti contro il governo Berlusconi, ormai al termine del mandato, e contro l'antifascismo democratico, liberale e laico, considerato un nemico. Tre giorni dopo il 25 aprile, Piero Ostellino scrisse sul Corriere della Sera parole sacrosante, che voglio citare perché Berlusconi, con tutto il da fare che ha, non può certo rammentarle. Ecco il giudizio di Ostellino. Pessima, davvero pessima, questa celebrazione del 25 aprile. È stata la giornata dell'innaturale divisione fra un antifascismo fondamentalista, integralista, intollerante, intimamente antidemocratico, e l'antifascismo democratico, degradato dal primo a poco meno di un fascismo di ritorno. Se questo è l'andazzo a 60 anni dalla caduta del fascismo, che senso ha aver fatto la resistenza per poi celebrarla in quel modo? Anche peggio andò il 25 aprile 2006. Confesso che speravo in una celebrazione più calma e liberale. Un paio di settimane prima Romano Prodi aveva portato alla vittoria il centro-sinistra. Berlusconi era stato battuto, sia pure di misura. E pensavo che esistessero tutte le condizioni per una festa pacifica. Mi sbagliavo. In quell'anno la festa fu più turbolenta che mai. La CGIL, attraverso il suo settore più potente, i pensionati, decise di fare della ricorrenza una giornata di lotta contro il revisionismo e il negazionismo dei crimini fascisti e nazisti. Vennero messe in vendita le t-shirt della Resistenza. Una mostrava la scritta «Aprile 2006, che liberazione, bella ciao, Silvio». Un'altra strillava, sempre contro il Berlusca, «L'Italia s'è desta, il 10 aprile ti ha fatto la festa, 1945-2006». Un'altra ancora, «L'Italia s'è desta e ha lasciato la destra, e di nuovo, la liberazione raddoppia». Ci mise del suo anche Prodi, parlando dal palco di Milano in Piazza Duomo, alzò la mano destra con le dita distese e gridò imprudente: «Governeremo per 5 anni!» La piazza era tutta della sinistra antagonista, con la connivenza di quella cosiddetta riformista. E il peggio toccò a un ex ministro di Berlusconi e candidato a sindaco di Milano, Letizia Moratti. La Moratti aveva voluto unirsi al corteo del 25 aprile col padre. Era Paolo Brichetto Arnaboldi, un signore ormai anziano e in carrozzella, che aveva fatto il partigiano sul serio nella Franchi di Edgardo Sogno. E dopo l'arresto da parte dei tedeschi, era stato deportato nel lager di Dachau, riuscendo a sopravvivere. Contro la Moratti e il padre si scatenò un'ostilità selvaggia e malasorte toccò ad altri esponenti di Forza Italia, malmenati e presi a calci. Sotto l'aspetto morale e politico, il finale fu ancora più nefando. L'antifascismo trinariciuto bruciò in Piazza Duomo le bandiere di Israele e della Brigata Ebraica. Anche in questo caso, i violenti misero in mostra la loro ottusa ignoranza. Che cosa sapevano della Brigata Ebraica? Nulla, a cominciare dal fatto che era tutta di volontari ebrei, 5.500 uomini provenienti da 50 paesi. Inquadrata nell'ottava armata britannica dal novembre 1944, aveva partecipato alla campagna d'Italia, perdendo molti ragazzi, poi sepolti nel cimitero militare di Piangipane, una frazione di Ravenna. La bandiera della Brigata Ebraica vedeva la Stella di David in azzurro, posta fra due strisce anch'esse azzurre in campo bianco. Bastò questo per eccitare la stupida violenza dell'antifascismo trinariciuto. Eppure quel vessillo venne fatto a pezzi, calpestato e dato alle fiamme. Il 25 aprile milanese fu talmente ignobile da suscitare un commento molto pertinente di Ernesto Galli della Loggia, che mi sembra di grande attualità. A proposito delle nefandezze milanesi, scrisse sul Corriere della Sera del 26 aprile: «La democrazia italiana non sa che farsene dell'antifascismo dei faziosi e dei violenti e non vuole avere niente a che fare con l'antifascismo che sfoga i suoi poveri livori politici per celare le sue pochezze, per maramaldeggiare». Le parole di Galli della Loggia ci inducono a riflettere sul grande equivoco storico che sta dentro la resistenza italiana. La parte maggioritaria dell'antifascismo armato, quella comunista, non combatteva per la libertà del paese, ma per sostituire una dittatura nera con una dittatura rossa. Questo è il problema. Di lì nascono le intolleranze violente che emergono nella sinistra a ogni anniversario del 25 aprile. Gli intolleranti sono quasi sempre dei nostalgici dell'URSS e del suo sistema. Non ce l'hanno fatta a portare Stalin in Italia e adesso, dopo tanti anni, sfogano ancora la vecchia delusione rabbiosa. Berlusconi dovrebbe cacciarsi nella trappola che lo aspetta a Milano? Non sono mai stato un suo elettore, ma glielo sconsiglio. Farebbe bene, molto bene, a decidersi di onorare il 25 aprile. Ma ha ragione il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, quando dice che ci sono molti altri posti per farlo. Lasci Piazza del Duomo a Franceschini e alle sue infantili provocazioni. Immagino che il fanciullo sbadato che guida il PD strillerà che l'assenza del Premier è una sua vittoria. Lo lasci urlare. Poi riderà bene chi riderà per ultimo, ossia dopo il voto europeo e amministrativo di giugno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giampaolo Pansa, Quelli che il 25 aprile bruciano ancora le bandiere non rosse, dal Riformista del 21 aprile.